English Bit di Giulia Crivelli. Splash. Another big splash by Italy's Eyewear King. L'agenzia Dow Jones lanciava con queste parole l'anticipazione sulla fusione tra Luxottica e la francese Essilor, un'operazione da 46 miliardi di euro. Un altro colpo grosso da parte del re italiano dell'occhialeria, potremmo tradurre. Il riferimento è a Leonardo Del Vecchio, 81 anni, fondatore di Luxottica, leader mondiale del settore per la fascia medio-alta e alta. La parola che ci interessa è splash, che prima di tutto è un verbo regolare, to splash, splashed, splashed, e significa letteralmente rovesciare o rovesciarsi. Se detto dell'acqua, indica qualcosa di forte, se non violento. Water splashed onto the floor. L'acqua si rovesciò sul pavimento. Rain splashed against the windows. L'acqua colpì le finestre. In senso transitivo possiamo dire he splashed cold water onto his face. Si buttò acqua fredda sul viso. Un altro significato è più giocoso. People were having fun in the pool, swimming or just splashing around. Tutti si stavano divertendo in piscina, nuotando o semplicemente saltellando nell'acqua. Se aggiungiamo out, otteniamo il phrasal verb spendere molto o troppo. We are going to splash out and buy a new car. Stiamo per fare un bel investimento, compriamo una macchina nuova. He splashed out hundreds of euros on designer clothes. Spese centinaia di euro in vestiti firmati. Splash è anche sostantivo. We heard a splash when she fell into the pool. Sentimo il rumore dell'entrata in acqua quando cadde in piscina. These flowers will give a splash of color throughout the summer. Questi fiori ci garantiranno un tocco di colore per tutta l'estate. Se qualcuno vi offre un tè, potreste dire I'd like it with a splash of milk. Vorrei metterci un goccio di latte. Tornando a Leonardo Del Vecchio Luxottica, splash vuol dire anche in senso figurato doing something in a way that attracts a lot of attention or causes a lot of excitement. Fare qualcosa in un modo che attrae su di sé molta attenzione o causa altrettanto sorpresa, in senso buono. Secondo i giornalisti americani, in 2007 Luxottica made another big splash buying Oakley. Nel 2007 Luxottica aveva fatto un altro colpo grosso acquisendo il brand Oakley. Ora tutti aspettano la prossima mossa, il prossimo big splash, del colosso Luxottica ex Essilor o dei suoi competitor.